vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 4 febbraio, il sole in regione sorto alle 7.27, tramonterà alle 17.16. Sabato ci sarà luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli e Armando Mucchino. I titoli. Le verdure invernali sono consigliate per le loro valenze salutistiche, ma bisogna prestare attenzione a quelle che possono contenere alte concentrazioni di nitrati. Uno dei santi particolarmente venerati in campagna era San Biagio, protettore della gola, apparato una volta soggetto a gravi malanni. Terza puntata dedicata ai grani antichi e alle quantità e proprietà della crusca che contengono. Quanti sanno cosa sia il diritto di tappo e quello che in particolari condizioni e accordi permette di portare in ristorante il proprio vino? È tempo di agrumi, frutti che hanno bisogno di particolari attenzioni per la loro corretta conservazione. Annunciano la primavera, bellissime nella loro semplicità. Stiamo parlando delle pratoline che portano un nome altrettanto significativo, Bellis perennis. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. La scorsa volta avevamo parlato con Costantino Cattivello, tecnico dell'ERSA, degli aspetti positivi legati ad un'alimentazione con ortaggi presenti nei nostri orti nella stagione invernale. Continuiamo oggi e vediamo quale avvertenza è bene seguire nella raccolta e nel consumo di questi ortaggi. Gli ortaggi in genere, e quelli a ciclo invernale in particolare, hanno diverse proprietà salutari, come si è detto la scorsa volta, ma spesso presentano delle sostanze naturali la cui assunzione è bene che sia limitata. E mi riferisco in particolare ai nitrati. Capiamone qualcosa di più. I nitrati di per sé non sono pericolosi e rappresentano, mi lasci passare il termine, una sorta di antigelo della pianta. In realtà sono le sostanze che derivano dalla loro trasformazione chimica, una volta ingeriti, ad essere pericolose per l'uomo e a causare possibili tumori dello stomaco e negli infanti anche il morbo blu. Quali sono le cause che provocano l'accumulo dei nitrati nelle parti eduli, quelle che si mangiano? Verrebbe subito da pensare che le eccessive concimazioni azotate siano la sola causa di questo accumulo, ma questo è vero solo in parte. Va subito chiarito che intanto non ci sono differenze sostanziali in termini di accumulo fra concimi organici e di sintesi. Certo, delle concimazioni moderate fatte per tempo, tenendo conto che soprattutto gli ortaggi da foglia hanno bassi fabbisogni azotati, è già un passo importante per risolvere il problema. Va però chiarito che l'accumulo cambia al variare della specie, della varietà orticola, dell'organo interessato e delle condizioni ambientali. E quali sono le orticole invernali che ne accumulano di più? Va subito detto che i nitrati sono presenti soprattutto nelle foglie e nei piccioli, mentre nei fiori, semi e organi sotterranei non ne accumulano granché. Tra le maggiori accumulatrici, la campionessa, per così dire, è la rucola, seguita da spinacio, valerianella, lattuga, radicchi e porro, tanto per citare alcune delle più consumate. Va pure detto che all'interno delle varie specie ci sono differenze importanti. Ad esempio, la rucola selvatica ne contiene molto più di quella coltivata, la lattuga cappuccia più di quella iceberg, lo spinacio bolloso più di quello liscio, i radicchi freschi più di quelli forzati, come ad esempio il treviso tardivo o la rosa di Gorizia o dell'Isonzo. Intendiamoci, però, la pericolosità è sempre legata alla quantità ingerita. Non credo che la rucola entri giornalmente in quantità elevate nella nostra dieta. È per questo che infatti il legislatore ha fissato dei limiti stagionali solo per lattuga e spinacio. Ci ha parlato anche di cause ambientali. Ma senza entrare in tecnicismi, diciamo che la luce dà una mano a ridurre la loro presenza nelle parti eduli. Infatti, il problema dei nitrati è tipico dei mesi con poca luce, come in inverno. Il consiglio che si dà è quello di raccogliere gli ortaggi del vostro orto al pomeriggio di una giornata soleggiata, eliminando le foglie esterne nel caso dei radicchi, o anche del porro, o i piccioli nel caso dello spinacio. Anche la cottura è importante, infatti gran parte dei nitrati se ne vanno appunto con l'acqua di cottura. San Biagio, che la Chiesa festeggia il 3 febbraio, è anche il protettore della gola, che un tempo, senza riscaldamento centralizzato e vite molto più spartane, era oltremodo soggetta ai malanni della stagione. Un santo di prima grandezza, quindi, per la gente dei campi, come ci ricorda Angelo Floramo. La pietà e la devozione contadina aveva un rimedio per ogni male, e dietro alla pratica c'era sempre la grammatica, che spesso confinava con la teologia. E dunque, se non ci si poteva permettere il lusso di andare dallo speziale, ci si rivolgeva al santo di turno. Le giornate fredde degli inizi di febbraio venivano così benedette dalla luce delle candele di San Biagio e di San Biagino, protettori della gola. In un tempo crudele e feroce, in cui il riscaldamento centralizzato era ancora al di là da venire, le alte vie respiratorie erano le più soggette alle infezioni. L'unica stanza riscaldata restava la cucina per via del fuoco sempre acceso. C'era infatti sempre una broda che borbottava in un coccio per fare il sapone, per riscaldare il minestrone, per spennare la gallina vecchia, quella che poi sarebbe finita in pentola per farne brodo, almeno in tempo di festa. Ma appena fuori dalla porta, chi si fosse avventurato in qualsiasi altra stanza della casa, veniva carezzato dalle mani del gelo, quello cattivo, che rende i ragazzini mocciosi, nel senso etimologico del termine, ovvero li adorna con un sempiterno moccio al naso, capace di regalare argentate iridescenze sulle maniche, specialmente quelle nere dei grembiulini, con inevitabili punizioni e reprimende da parte dei maestri di scuola. La notte, poi, era un tormento. Si cercava tepore sotto le coperte, ma il respiro si gelava, proprio come l'acqua nella bacinella, per lavarsi la faccia. O i vetri che andavano formando i ghirigori d'artista. Tonsilliti, tracheiti, bronchiti erano sommessamente definiti mali di stagione, con quella rassegnazione popolare che, non potendo cambiare lo stato delle cose, è incline, perlomeno, a calendarizzarlo, sperando che prima o poi possa passare. Per questo, nel giorno dedicato ai due santi quasi omonimi, si portavano in chiesa le candele perché venissero benedette dal prete. Donne, vecchi e bambini si mettevano in fila davanti all'altare, aspettando che il plevan, il pievano, le incrociasse proprio lì dove i dolorosi arrossamenti pungevano forte, rendendo penosa perfino la deglutizione. La fede era ancora intrisa di magia e di stupore. Una volta a casa, i ceri diventavano un talismano potente contro il male. Gli uomini preferivano un'altra cura, gargarismi con la grappa. Ovviamente, una volta effettuato lo sciacquo, affinché la pratica fosse davvero salutare, era assolutamente proibito sputare. La medicina, si sa, va mandata giù tutta, fino all'ultima goccia. Parlando di grani antichi, con il professor Raffaele Testolin abbiamo visto di cosa si tratta e delle loro proprietà. Non può mancare un capitolo, il terzo e ultimo, dedicato alla crusca. Siamo all'ultima puntata sui grani antichi. Abbiamo visto che producono poco, che hanno contenuti in proteine elevati, ma proprio per questo danno problemi di intolleranze e celiachia. La volta scorsa ho lasciato gli ascoltatori dicendo che un pregio i grani antichi forse ce l'hanno. Hanno contenuti elevati di componenti bioattivi, come i tocoferoli, i carotenoidi e compagnia bella. È vero, questi composti, che in una dieta equilibrata comunque non mancano, sono contenuti nella crusca. Frumenti antichi e soprattutto il farro di crusca ne ha molta, ma la crusca non manca nemmeno dei frumenti moderni, se vengono macinati integralmente. Quindi le differenze nel contenuto di crusca non sono tanto tra i grani antichi e quelli moderni, ma sul tipo di farine, integrali o no, che vengono prodotte con questi tipi di frumenti. È chiaro che un confronto corretto sul contenuto in crusca dei grani antichi e moderni deve essere fatto tra farine integrali. A volte nei claims pubblicitari a favore dei grani antichi si trovano confronti tra farine integrali di grani antichi e mescole di farine bianche di frumenti moderni. Il confronto non è corretto, è evidente. Concludo con un accenno alle paste di soli grani italiani reclamizzate come un orgoglio del Made in Italy. È vero che le varietà moderne di frumento duro create e coltivate in Italia sono migliorate molto grazie al paziente lavoro dei genetisti. Sono migliorate sostanzialmente per il contenuto proteico, più elevato rispetto alle vecchie varietà, e per la qualità del glutine. Ma qualsiasi produttore di pasta serio vi dirà che senza il contributo delle farine di forza non si fa una buona pasta. Queste farine di forza sono prodotte nei paesi con climi più adatti, Canada, Arizona, Texas, anche in Francia. Hanno una forza del glutine, indicata con la sigla W, superiore a 350, e chi è esperto di forza delle farine sa quanto conta un valore elevato. Il discorso vale anche per i prodotti a lunga lievitazione, oggi tanto ricercati, come pizze, pani, panettoni, eccetera. Con questo spero di aver fatto chiarezza sui grani antichi. Vi saluto e vi prometto che con la prossima puntata cambio argomento. Forse non tutti sanno che esiste anche un diritto di tappo. Che cos'è? Ce lo spiega oggi Vladimiro Tulisso per la rubrica dei sommelier. Nelle scorse settimane abbiamo parlato più volte di tappi del vino, ma alcuni ascoltatori hanno segnalato che non è stato affrontato il tema del diritto di tappo. Quindi ci rimediamo oggi. Il diritto di tappo è la pratica di portare al ristorante una bottiglia di vino acquistata altrove, pagando al ristoratore una somma per la stappatura, l'utilizzo dei bicchieri e l'eventuale decantazione. Nato in California agli inizi del Novecento, il diritto di tappo si è diffuso nel mondo, anche se in Italia in maniera abbastanza timida. Lo scopo del diritto di tappo è quello di condividere con i propri ospiti in un ristorante una bottiglia di valore e abbinarla a dei piatti adeguati. Accade che nella nostra cantina ci siano bottiglie importanti che restano sugli scaffali perché non vogliamo consumarle con i cibi che siamo in grado di cucinare a casa. Altre volte vogliamo con noi una bottiglia che ha un significato emotivo, ricorda un anniversario o una persona speciale. Quindi serve un motivo forte. Non si porta una bottiglia al ristorante per risparmiare, cercando di spendere meno rispetto alla carta dei vini che ci verrebbe proposta. Sarebbe una brutta figura. Per evitarla, ricordiamoci alcune regole. Verifichiamo che il ristorante ammetta il diritto di tappo. Dobbiamo chiedere a chi lo gestisce se è d'accordo che noi arriviamo con una bottiglia. Se ci diranno di sì, presentiamoci con una o al massimo due bottiglie, evitando etichette già presenti nella carta dei vini del locale. Se non c'è la carta dei vini, avremo più spazio di scelta, ma mai arrivare con una bottiglia banale. Non appena nel locale, informiamo il personale che abbiamo con noi la bottiglia e gliela affidiamo. Bisognerà portarla a temperatura, preparare i bicchieri. Se si tratta di un prodotto raro, infine, verrà apprezzata la proposta di un assaggio da condividere con il cameriere o il sommelier. Non polemizziamo, alla fine, per il conto del servizio. Qualcosa dovremo pagare. Tra i 5 e i 10 euro a persona è considerato un costo accettabile. Michela Urbano oggi ci dà una serie di consigli per la miglior conservazione degli agrumi e la ricetta per uno sciroppo di limone, miele e zenzero. A gennaio e febbraio arance, limoni e mandarini fanno bella mostra di sé, portando nel grigiore dell'inverno una nota allegra con i loro colori accesi. Qualora decidessimo di farne scorta, sarà bene prestare attenzione a qualche piccolo accorgimento. Innanzitutto teniamo a mente che gli agrumi appartengono alla categoria dei frutti non climaterici, ossia che non maturano dopo la raccolta. Pertanto, all'acquisto, accertiamoci che l'agrume sia stato raccolto al punto giusto di maturazione. Prestiamo attenzione alla nomenclatura. Anche gli agrumi, come tutti i vegetali, hanno caratteristiche, sapori e tempi di raccolta differenti tra loro. Una volta a casa evitiamo di ammassarli, riponiamoli in ampie ceste permettendo all'aria di circolare liberamente. Un luogo fresco e asciutto è l'ideale per conservarli, mentre se optiamo per un terrazzo assicuriamoci di proteggerli dalle gelate notturne e dai raggi solari diretti. In alternativa possiamo riporli nel cassetto destinato alla frutta e verdura del frigorifero, evitando i contenitori chiusi ermeticamente poiché essi raccolgono la condensa e favoriscono l'insorgere della muffa. Sezionando gli agrumi otteniamo innumerevoli varianti di conservazione. Il succo degli agrumi, in particolare quello dei limoni, può essere congelato in comode porzioni per essere utilizzato in sostituzione del succo fresco. Possiamo anche emulsionarlo con dell'olio prima di congelarlo. Sarà un condimento perfetto per innumerevoli piatti. Sconsiglio di congelare gli agrumi a spicchi perché una volta decongelati non mantengono una buona consistenza. Anche la buccia può essere congelata e utilizzata a necessità per aromatizzare risotti, piatti di mare e arrosti. Se utilizzata a tale fine, assicuriamoci di scartare la parte bianca per evitare un retrogusto amaro. La buccia essiccata e polverizzata è utilissima per profumare torte e biscotti. Anche l'albeto, la parte bianca interposta tra la buccia e la polpa che abbiamo precedentemente scartato, potrebbe essere utile in cucina. Con essa si realizzano deliziosi canditi. Vi lascio una ricetta facile e veloce, lo sciroppo di limone, miele e zenzero. Scegliete dei limoni non trattati, lavateli, asciugateli accuratamente e tagliateli a fette. Procuratevi del buon miele dal sapore delicato di pari peso ai limoni. In un barattolo stratificate limone privato dei semi, fette di zenzero e miele. Concludete con uno strato di miele che vada a coprire il tutto. Tappate e conservate in frigorifero. Dopo 3-4 giorni è pronto per essere consumato puro o diluito in acqua o tisane calde. Il suo nome scientifico è Bellis perennis, più comunemente conosciuta come pratolina o margaritina dei prati, un fiore che annuncia la primavera, che oggi ci descrive Alessandro Squizzato nelle sue caratteristiche e varianti. La Bellis perennis è una pianta erbacea rustica e perenne, da esterno, diffusa in tutta Europa ed appartenente alla famiglia delle asteracee, che non supera i 15-20 cm di altezza. È anche conosciuta come pratolina comune o margaritina dei prati, poiché al suo sbocciare assomiglia molto alle margherite, da cui si differenzia tuttavia per le dimensioni molto più piccole. È caratterizzata da una fioritura che comincia già durante i mesi invernali e si prolunga fino all'estate. Dal cuore della pianta sbucano gli steli, che terminano con i fiori, formati da numerosi petali stretti di vari colori, tra cui rosa, bianco e rosso, al cui centro è ben visibile la corolla dorata. Se si desidera creare uno spazio aperto sempre colorato e vivo in qualsiasi stagione dell'anno, la Bellis perennis è la scelta migliore. Non teme le basse temperature, anche quando queste si abbassano a meno 15 gradi. È possibile comunque che il freddo e il caldo eccessivi arrivino a rovinare o bloccare la fioritura. La Bellis perennis è una pianta fiorita e, come si sa, per poter produrre una ricca fioritura, le piante hanno bisogno di un ottimo apporto di luce solare. La coltivazione all'esterno è quindi fondamentale. La pratolina non va tenuta in casa. Deve essere piantata in un luogo soleggiato e, quando coltivata in vaso, esposta in pieno sole sul balcone o sul terrazzo. Tollerano anche posizioni a mezz'ombra, ma in questo caso la pianta potrebbe produrre meno fiori. È ottima in combinazione con viole, bocche di leone o Non ti scordar di me, di cui abbiamo trattato le scorse puntate. La margheritina richiede annaffiature regolari, ma il terreno deve essere asciutto tra un'irrigazione e l'altra per evitare i ristagni idrici. Proprio per questo motivo si consiglia terriccio universale di buona qualità e ben drenante. Ogni 10-15 giorni si può fornire un concime per piante fiorite nell'acqua di annaffiatura. Ciò favorirà la fioritura. La Bellis perennis rappresenta nel linguaggio dei fiori bontà, purezza e innocenza. Con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli, Venezia Giulia. Mercato debole con prezzi cedenti venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 19,60 e 19,80 euro al quintale, IVA esclusa, il frumento tra 21,50 e 22 euro. lordo peso specifico 62-65 tra 19,70 e 20,20 e la soia tra 44-44,50. Rispetto ad un anno fa, il mais è diminuito di 9,70 euro il quintale e la soia di 9,20. Scarse le contrattazioni all'ortofrutticolo di Udine con prezzi altalenanti. L'insalata Gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate da 1,20 a 1,50 euro al chilo IVA esclusa, i finocchi tra 1,50 e 1,80, le zucchine da 3 a 4 euro, i cetrioli da 2,30 a 2,60. La scalora riccia e gli spinaci tra 2,80 e 3 euro, le melanzane tonde e i cavoli tra 1,60 e 2 euro, i peperoni gialli e rossi tra 2,60 e 3,50, i pomodori in grappolo italiani da 2,20, il radicchio rosso tondo e quello di Treviso precoce da 1,60 a 2 euro, i carciofi violetti da 0,80 a 1 euro e le mamme romane tra 1,50 e 1,80, le mele golden da 1,50. Le abate da 3,60 a 4 euro e le arance da 1 a 2 euro il chilo. Nel settore della pesca, per le condizioni meteo favorevoli, l'attività per la stagione è buona e i prezzi sono stabili. Alla cooperativa pescatori San Vito di Milano Lagunare i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono da 8 a 24 euro il chilo, IVA esclusa, le orate da 5 a 18, le sogliole da 7 a 24, le canoce da 6 a 12, le passere da 8 a 11. Mazzancolle da 18 a 28, le capesante da 19 a 21, le seppie da 6 a 11 e i calamari da 10 a 20. Nel comparto degli avicunicoli si segnalano prezzi diversificati, i poli a terra vengono quotati da 1,05 e 1,09 euro il chilo IVA esclusa, le anatre da 3,20 e 3,30, i tacchini maschi da 1,60 a 1,62, le faraone da 3,50 a 3,58, i conigli oltre del chilo e mezzo da 2,87 a 2,93. Le uova oltre 73 grammi provenienti da alimenti a terra sono a 20 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Marcellino Salvador diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante. L'ultima decade di gennaio è stata dominata dall'anticiclone con aria mite in quota che ha determinato tempo stabile e inversioni termiche. Febbraio è iniziato senza variazioni e sui monti continua a fare caldo per la stagione con una situazione più primaverile che invernale. Spesso lo zero termico arriva a 3.000 metri di quota, almeno 1.500 metri più in alto del normale. Febbraio si è aperto anche con un record storico che riguarda la temperatura del mare a Trieste, che ieri è stata di 11 gradi, 2 gradi oltre la norma, che per il mare è un'enormità. Da quando si effettuano le misurazioni, e quindi da oltre un secolo, mai ad inizio febbraio il mare a Trieste aveva toccato questo valore. Nei prossimi giorni l'anticiclone continuerà a mantenere stabilità, ma nei bassi strati l'aria si farà più umida, specie dalla costa alle prealpi. Così, mentre sulle Alpi proseguirà il bel tempo, sulle altre zone cominceranno a prevalere nubi basse, foschie e nebbie, con una riduzione dell'insolazione e quindi anche dell'escursione termica. Avranno quindi termine le gelate notturne in pianura e di giorno non si andrà oltre i 10 gradi circa su pianura e costa, dato il scarso soleggiamento. I venti saranno praticamente assenti, salvo che in montagna. Verso il fine settimana, depressioni dall'Atlantico settentrionale arriveranno sull'Italia e ciò riporterà le piogge probabilmente tra venerdì e domenica. La quota neve sarà piuttosto alta per la stagione e, orientativamente, oltre i 1500 metri. Ovviamente, vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti delle previsioni che l'ARPA elabora sempre quotidianamente, per avere elementi più dettagliati e precisi rispetto alla svolta meteorologica attesa. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Fevrarut, ogni erba è sociavut, ovvero febbraieto, ogni erba ha il suo capolino, la natura si risveglia. Coordinamento tecnico di Daniela Posto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.